fossi yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Tra i momenti più divertenti da quando parlo a questo microfono posso senz'altro annoverare quelli in cui mi affido con concupiscente lussuria al disprezzo del pubblico. Ne faccio bandiera orgogliosa, faccio sentire alla radio, non lo farò questa mattina perché è un'altra trasmissione, faccio sentire alla radio le sequele di insulti che arrivano alla segreteria telefonica, le attestazioni gloriose di odio, le persone vorrebbero travolgermi con l'automobile, farmi a pezzi, distruggermi, uccidermi, svergognarmi. Ma alla base di tutto esiste soltanto un profondo e radicale movente, che non è determinato, che ne so, da un'ideologia. Non esprimo mai nessuna ideologia, sono volubile nella mia valutazione di ogni aspetto della realtà, potrei sovrascrivermi ogni istante, non sono per niente innamorato di una tenuta ideologica, e quindi non è per quello, quindi né per accuse di appartenere all'una o l'altra fazione, visto che il paese è così tenacemente diviso tra guelfi, ghibellini, fra bianchi e neri, fra rossi e bianchi e via dicendo. Non per mie particolari condizioni di privilegio, in fondo faccio un programmino alla radio, fine, se ne fanno centinaia di migliaia, figuriamoci cosa dovrebbe essere Giletti, cosa dovrebbe essere Malgioglio, cosa dovrebbe essere, non so, una sorta, sto elencando un Olimpo di personaggi che hanno grandissima visibilità, grandissimo potere mediatico. Ho capito e ho intuito che in realtà la chiave essenziale è che mi considerano un mangiapane a tradimento. Gli ultimi messaggi d'odio che ho ben fissi in mente mi sono arrivati su Facebook di un signore arrabbiatissimo con me. Dice: se quello che fai te è lavorare è uno schifo, è una cosa vergognosa, vorrei vederti finalmente in miniera a zappare. E ho capito che fondamentalmente a torto mi viene attribuito il ruolo di intellettuale. Dice: vedi questo? Una frase che mi sentivo dire da mio padre molto spesso: adesso che hai imparato a mettere due parole in fila, chi ti credi d'essere? Ecco, il fatto che uno si abbia il suo dignitoso lavoro nel arrovellare pensieri, nel parlare di qualcosa di incorporeo che probabilmente non produce reddito, non produce profitto, via dicendo, viene considerato una sorta di attività parassitaria. Quindi le punte più avanzate del disprezzo, dell'odio o della rabbia nei confronti di chi esprime pensiero è quello del fatto che tu non produci, tu non fai quello che faccio io, soprattutto non fatichi. L'esprimere pensiero viene considerato un'attività non faticosa. La funzione dell'intelletto viene considerata un esercizio improprio di una facoltà organica, cioè tu devi usare le mani, devi usare i piedi, devi usare le dita, devi scarnificarti, devi avere i calli, o perlomeno aver studiato delle scienze esatte, fare il ragioniere, il geometra, l'architetto, l'ingegnere, il medico, tutta una serie di professioni in cui comunque anche l'uso dell'intelletto viene considerato proprio. L'attività più parassitaria è quella che pensa, legge, parla di libri, parla di fughe domestiche, parla di Suor Margherita, parla di poesia, parla di attitudini, parla di sentimenti, parla di abiezioni. Ecco, tutto questo non serve a nulla, non fa parte della parte essenziale. Ecco, invece è una importantissima e anche frustrante attività quella di, ahimè, guadagnarsi il pane e quindi essere considerato un intellettuale. Il ragionamento che questa mattina vorrei sottoporre al giudizio del pubblico è: quale allora deve essere secondo voi la funzione, se ancora deve esistere, se ancora può esistere, se ancora ha ragione esistere, di chi in realtà per una sorta di casualità, di occasioni della vita, o perché da piccolo ha studiato in una certa direzione perché era più facile piuttosto che studiare altre cose, oggi si trova a fare l'intellettuale. Qual è il ruolo dell'intellettuale? Come deve sentirsi un intellettuale? Qual è la funzione che deve avere nella società un intellettuale? Mi smarco subito, non mi reputo un intellettuale, mi reputo un saltellatore sui sassi sul guado di un torrente. Considerate che nella visione di Bauman la contemporaneità è un grande fiume che scorre, io sono quello che saltella di sasso in sasso, quindi non si ferma mai, non ha nessun fardello, non ha nessun bagaglio, non ha niente dentro, saltellando ogni tanto, scivolando e surfando, dà la sensazione di esserci, ma in realtà non c'è mai. È l'alba in questa foresta situata a qualche centinaio di miglia dal polo sud. Dopo mesi di totale oscurità, i primi raggi di sole filtrano attraverso gli alberi, rivelando un mondo algido e aspro. È il mondo dei dinosauri polari. Benché si siano adattati a queste condizioni estreme, anche per loro la sopravvivenza è un'ardua lotta. Invece esistono radicati, profondi, concreti intellettuali, veri, quelli che hanno la casa piena di libri, quelli che hanno letto tutto, quelli che hanno studiato le lingue, quelli che conoscono la musica, quelli che conoscono la storia, quelli che hanno viaggiato, quelli che sanno tantissime lingue, esistono veramente. Quelli veramente hanno un problema, non tanto noi fluttuatori, noi surfisti, noi millantatori, noi chiacchieroni. Noi possiamo comunque reinventarci mille mestieri e sappiamo anche in fondo adattarci, come abbiamo sentito giorni fa, fare gli idraulici, gli imbianchini, gli sturatori di gabinetti, possiamo fare tutto, che in realtà non siamo intellettuali. Ma oggi qual è veramente il dramma e l'angoscia dell'intellettuale? È quella di sentirsi un dinosauro, di sentirsi un animale estinto come il dinosauro polare che avete sentito adesso, che in realtà non dovrebbe esistere più, che in realtà c'è stato il cataclisma, dovrebbe resistere soltanto come scheletro disossato, discarnificato e messo nei musei, ma in realtà ancora c'è, ancora esistono persone che per loro diletto, per loro dannazione familiare, per tradizione storica, hanno letto tanti libri, studiano, ragionano, hanno una complessità di pensiero molto distante dalla semplificazione che oggi radicalizza il pensiero televisivamente elaborato. Beh, uno di questi è l'amico Piero Dorfles. Piero, buongiorno. Buongiorno. Il dinosauro Piero Dorfles ha scritto appena un libro, appunto intitolato Ritorno del dinosauro, che annuncia mestamente, gloriosamente, il fatto che ancora il dinosauro esista, sia vivo, sia presente, che è in realtà, leggo il sottotitolo, una difesa della cultura. Quindi il ritorno del dinosauro di Piero Dorfles, una difesa della cultura, appena uscito fresco di stampa per Garzanti. Piero, come ci si sente nel ruolo del dinosauro che dovrebbe essere estinto? Ma ingombranti, con queste codone, tutti gli scaglie addosso, quando si gira per la casa si rovina tutto. Insomma, i dinosauri sono ingombranti, noiosi e fastidiosi, non c'è dubbio, danno molto fastidio. Io credo però che non si debba far coincidere la figura del dinosauro con quella dell'intellettuale. In fondo il dinosauro può essere benissimo uno che di mestiere fa un'altra cosa, ma ha dietro le spalle qualcosa di giurassico, e cioè la capacità di guardare indietro, di pensare che la storia è una cosa da cui si impara qualcosa, il rispetto per chi ha studiato più di lui, perché appunto il dinosauro può essere anche un praticone come me, sono un giornalista in fondo esattamente come tanti altri. E forse il dinosauro è anche quello che sa che il ruolo della sua presenza sulla Terra, qualunque essere animato sulla Terra ha un suo ruolo, non è solo quello di guardare indietro, ma anche quello di guardare avanti. E curiosamente io credo che lì forse è la cosa più difficile da trovare. Il dinosauro oggi dà fastidio perché oltre a guardare indietro guarda anche avanti e si chiede persino cosa succederà domani. Ecco Piero, noi ci siamo conosciuti, siamo colleghi di antichissima frequentazione nei tempi delle mie vicende di Rai, ci siamo continuati a sentire, ci siamo confrontati sulla realtà. Piero è continuato a rimanere nell'azienda Rai, è giornalista del TG1, ha una rubrica per un pugno di libri, lo vedrete la domenica, scrive, partecipa comunque al dibattito intellettuale. Ma a differenza fra noi è che io cerco in qualche maniera di accaparrare, di alfabetizzarmi, di fare miei, di conquistare o di essere conquistato da quelli che sono gli strumenti o i supporti del contemporanea trasmissione del sapere o dell'intelletto. Piero invece è rimasto ancorato, e lo dice e lo ammette, in una sorta analogica tradizione intellettuale. Beh, devo ammettere che questo è una sorta di vizio dinosaurico, non perché io non abbia simpatia per il mondo digitale, non perché io non passi... Non sei un luddista, te la tecnologia no, ammetti che passo, è uno strumento di evoluzione. Passo la giornata sul computer esattamente come tutti gli altri, guai se non ci fosse internet. Ho un certo fastidio per cose tipo Facebook perché le trovo un po' invadenti, in qualche modo mi costringono a passare più tempo di quanto già non passi sul computer, però non voglio rinunciare alla lettura della carta. Perché? Perché è diversa, perché la lettura della carta è una cosa che impone un rapporto peculiare. Noi ci impadroniamo di qualcosa che sta scritto lì, lo trasformiamo, lo facciamo diventare uno strumento personale e via dicendo. Uno potrebbe dire: ma perché questa follia, visto che c'è tanta roba scritta anche in rete? La risposta è perché in rete andiamo per frammenti, mentre invece la carta scritta va per processi logici più complessi. Ti do due esempi. Io ho messo sul profilo di Facebook mio, che uso come feedback quotidiano da parte del pubblico, una fetta del pubblico, la copertina del tuo libro è il fatto di Coggio Rei, Dorfless in studio, cultura e sopravvivenza, come scivolare sul pelo dell'acqua senza bagnarsi le caviglie. Questa era la sintesi per internet della nostra trasmissione. Mi scrive Cristiana, mi dice: mi pare ricordare che uno venuto da Nazareth svariati secoli addietro ci riuscì benissimo. Cioè porta un'ascoltatrice che ha il gusto del paradosso, porta l'unica testimonianza storica però di essere supportata da un atto di fede di qualcuno che è camminato sulle acque, sul mio scivolare sulle acque, che in realtà è un'impossibilità, nessuno può camminare sulle acque. E invece una serie di altri ascoltatori, avevo soltanto detto Dorfless, subito pensavano a tuo zio Gillo Dorfless e hanno detto: ah, è Gillo Dorfless in studio. Invece è Piero, che è il nipote. Mi spiace per voi, sono soltanto un misero nipote. 800 24 00 24, la trasmissione ha avuto il suo inizio, ha dato le sue dichiarazioni di intenti, sentiamo le prime reazioni. Amedeo, buongiorno. Buongiorno Gianluca, intanto complimenti per la trasmissione. Ecco, se omettete questa orribile anticipazione, lo dico più volte, vorrei usare la motosega preventiva, ecco, lo dico per l'ultima volta. Andiamo subito. No, okay, dico a Piero Dorfless che non so se... Noi abbiamo uno strumento di alta democrazia e di selezione intellettuale, abbiamo una motosega che potrai sentire più tardi, ci sarà occasione, con cui seghiamo direttamente le persone che non riteniamo funzionali alla trasmissione. La conosce lei, vero Amedeo? Tutti sanno cosa sia. Andiamo subito al punto. Andiamo al punto. Ok, io sono un ricercatore per giunta precario, quindi rientro un po' nella categoria, diciamo, non molto a pieno titolo, forse di colui che pensa. Penso che il ruolo dell'intellettuale sia quello di mettere le persone in condizioni di farsi delle domande, non di avere delle risposte. Anche Marzullo fa la stessa cosa. Dipende dalle domande. Non a caso è una delle punte degli programmi culturali del servizio pubblico, colui che fa il cinema, la letteratura, il teatro. Marzullo dice: lei si faccia una domanda e si dia una risposta. È sublime da questo punto di vista. Il problema, io diciamo, mi occupo, tra l'altro mi occupo di economia, però diciamo, molto spesso la gente è abituata ad avere già le risposte, specie in Italia, no? Con l'esempio che faceva lei, non faccio un lavoro che mi rovino le mani, ok, cose concrete, cose che si toccano, però è anche il caso che la gente... Quindi il ruolo dell'intellettuale, lo stiamo focalizzando, è colui che pone il pepe del disagio di farsi le domande cosa ci sia oltre la realtà raccontata, visto che abbiamo oggi un grande raccontatore di realtà che è il sistema integrato dei media, oltre quello cosa c'è? Quindi l'intellettuale è una sorta di scopritore di realtà nascoste, un ricercatore di senso laddove sembra che l'unico senso sia quello condiviso da tutti. Grazie. Abbiamo René, buongiorno. Buongiorno. Attenzione che l'eco... Abbassi la radio, sennò sono costretto. Buongiorno Nicoletti, ecco. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. È sulla strada. Io ho sentito quello che prima ha detto del signore che ha scritto su Facebook. Sì. Ma insomma, io intanto queste cose le disapprovo, perché ognuno si faccia il lavoro suo, ecco. Premetto questo. Cioè, scusi, dopodiché, la premessa non mi è chiara. In che senso? Premessa? Volevo dire che il signore mi pare che l'abbia accusata di, sì, di svolgere un lavoro che non produce. Ah, che sì, è un lavoro, sì, dove non è il signore lì a parlare. È dall'età di 22 anni che viene detta questa cosa. Oh, allora, ognuno fa il suo mestiere, insomma. E poi, a parte il fatto che non è vero che sia un lavoro che non abbia un dispendio di energie, in quanto lei si deve recare alla radio, penso un magari po'. Deve affrontare il traffico, immagini, ecco, salire le scale, ecco. Io la sento pochissimo, ecco perché no poi ho un pulsante, ogni volta che devo parlare devo pigiare un pulsantino. No, c'è un impegno fisico, devo dire. Comunque, anche no, volevo dire che insomma non è poi da tutti essere capaci di svolgere questo mestiere. Quindi lei, no? Lei ci attribuisce una complessità, Piero Dorfless. Beh, mi fa piacere che qualcuno garantisca che lo stipendio di Nicoletti sarà pagato, perché è riconosciuto capace di svolgere. Vale anche per il tuo. Lavoro. No, io non faccio quasi più niente, sono pagato soltanto per stare zitto. No, parto dal presupposto che il signore forse... Questo non però potrebbe essere la prova che tu sei un intellettuale. Lo è, certo. Perché il dinosauro, proprio perché pensa, proprio perché, come in fondo ha detto il signore prima, aiuta a proporsi le domande, è fastidioso, lo detto prima, si agita nelle stanze chiuse, piccole, negli spazi sempre più ridotti in cui noi viviamo, con queste sue codone, con questa sua mole insopportabile. Quindi dovrebbe rassegnarsi a essere spolpato e di lui rimanga soltanto la crisalide vuota, lo scheletro. Ecco, questo è quello a cui dovremmo, credo, tutti rassegnarci secondo quello che è una filosofia del tempo presente. Io però sono dell'idea che invece i dinosauri debbano ribellarsi. Sentiamo Marco. Marco. Buongiorno Gianluca. Lei è per la rivolta dei dinosauri? Sì, sono per la rivolta, sono per il mantenimento dei dinosauri. Perché ah bene, grazie, ci mantiene. Servono a noi mortali ignoranti o chi ha avuto, chi non ha avuto la possibilità di fare scuole, insomma di imparare sempre di più, poi ognuno di noi coglie quello che più gli serve, ecco, nella vita. E voi, soprattutto in questi spazi qua, ci date l'opportunità per imparare. Nicoletti, guardi, io quando era sulla Rai 1, che la seguo, subito non riuscivo a capire dove lei voleva arrivare, sempre con queste parolone forbite che non riuscivo neanche a immaginare. No, ma quella è una malattia infantile, non è che fa... Ma non lo sa neanche lui. Esattamente questo, non è che esiste un punto di arrivo, esiste un grazioso e delizioso itinerario da seguire affidato alla deriva momentanea. Vede, l'ho ancora una volta, come faccia Don Abbondio, rincoglionita di parole, e lei non ha capito, ma nemmeno io. Piero. Ma no, questa osservazione a me fa un po' impressione. È un po' barnabeiana. No, ma qualcuno che telefoni e dica voglio imparare da una trasmissione, si rende conto? È una cosa assolutamente giurassica, che qualcuno voglia imparare dalla radio, dalla televisione, è inaudito, anzi, posso dire... Oggi, se c'è una trasmissione che per caso insegna qualcosa, giustamente subito si dice basta, la si chiude. È una cosa che dà fastidio. Quindi dovrei temere della mia sopravvivenza. Io, se fossi in lei, sarei piuttosto preoccupato. C'era una volta... Urri! Diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega so di un aver toccato farinamico. Le vene profonde, l'emotività di Piero Dorfles, che è un pinocchiofilo, in questo ci siamo abbastanza ritrovati. Allora, tu hai appena detto al povero signore che mi ringraziava, è rimasto ancora questa idea bernabeiana del mezzo di comunicazione di massa, che è la grande catechesi, la grande università dei poveri, degli umili, su cui hanno vissuto generazioni di ignoranti che stanno da questa parte del microfono, che soltanto per il fatto che la televisione desse a loro, o la radio, o il giornale, questa sorta di investitura, si sentivano come stiano tali. E ho citato appunto Marzullo, che è il più sublime, che è un'opera d'arte vivente da questo punto di vista. Ecco, invece però guarda che tu hai, a differenza di molti altri intellettuali, non hai puzza sotto il naso. Tu ammetti, come fosse una rilettura in chiave diversa della filosofia di Tarantino, che io seguo come fosse una religione, che in realtà oggi l'intelletto passa attraverso supporti non regolarmente iscritti alla categoria dei supporti dell'intelletto, quindi non i libri, le opere importanti, non le partiture musicali, possono essere anche fumetti, possono essere anche letteratura per l'infanzia. Pinocchio era uno di questi. Pinocchio è un grande libro sapienziale, attraverso Pinocchio ci ispiriamo e possiamo seguire mille rivoli del sapere. Ecco, perché a un certo punto si è interrotta? Perché il supporto televisione non ha questa caratteristica che avevano la letteratura per l'infanzia, i giocattoli costruiti a mano, che hanno ancora i fumetti, certi fumetti. Ma credo che Pinocchio, come Paperino, come tanti altri strumenti fondanti della nostra cultura contemporanea, faccia parte di quelle grandi narrazioni che contengono tutto. Dentro Pinocchio c'è contemporaneamente il grande divertimento di un bambino che non deve ancora avere a che fare con il principio di realtà, con gli obblighi dell'età adulta. E quindi infatti il finale è catastrofico, quando sì, diventa un bambino. Quando diventa bambino è una cosa tristissima, nessuno di noi vorrebbe sapere che... Quell'infame bambino grasso, col borsellino con i soldi. Terribile, una già cosa pronta a farlo lo strozzino. Tristissimo, tristissimo. Contemporaneamente è vero che Collodi ci mette in guardia di fronte al fatto che non possiamo vivere tutta la vita da Pinocchi, e quindi con garbo, piano piano, ci dice che purtroppo bisogna diventare adulti. Quel purtroppo però non è che sia una cosa che riguarda soltanto Pinocchio in quanto burattino, riguarda tutti noi, e il diventare adulti è una cosa molto più complessa che non andare a scuola e far di conto come fa lui. Non riguarda soltanto l'abecedario, riguarda il senso di responsabilità. Ecco, io credo che in questo un po' di dinosaurità nella lettura di Pinocchio ci vuole, e cioè guardare anche al fatto che nel momento in cui si diventa adulti bisogna essere consapevoli, avere rispetto per le regole, essere capaci di vivere con gli altri, mentire nel limite del possibile, non troppo, tanto i nasi non si allungano. Ecco, questa è la differenza, perché invece noi surfisti amiamo prendere, portare e trascinare nel paese dei balocchi più persone possibili, e rimaniamo fortemente ancorati all'idea che il paese dei balocchi sia l'unico luogo possibile in cui si rischia di diventare asini, e quindi si rischia comunque una mutazione. Melog 2.0. Nulla poteva salvare la foresta dal fuoco. Uno dei punti fondamentali di riflessione del libro di Piero Dorfles, Il ritorno del dinosauro, una difesa della cultura, edito da Garzanti, è proprio il famosissimo spot sullo scoiattolino scorreggione su cui abbiamo spesso riflettuto. Ecco, Piero, tu vedi un punto cruciale proprio nell'evoluzione e nella, ahimè, postuma scomparsa degli ultimi dinosauri proprio in questo spot dello scoiattolino. Strano, perché fra animali dovreste avere una sorta di sintonia. E infatti qui c'è qualcosa di curioso. Forse i dinosauri nel segreto, come spesso dici anche tu, fanno le puzze. Però, beh, tutti le fanno. Esatto, quindi anche i dinosauri sicuramente hanno. Però una cosa, anche le signorine più affascinanti le fanno. Esibirle in modo così esasperato. Lo fanno, e naturalmente poi noi siamo felici di scoprire che questo le riporta alla nostra dimensione umana. Però quella pubblicità a me è sembrato che rappresentasse un punto di superamento di quelli che sono alcuni limiti, e mi sono detto, ma se come ho letto i ragazzi vogliono addirittura utilizzarla come suoneria per il loro telefonino, se lo trovano fichissimo, testuali parole di alcuni adolescenti con i quali mi sono confrontato sull'argomento, vuol dire che c'è qualcosa che è diventato parte della nostra vita quotidiana. Lo sdoganamento della scorreggia mi è sembrato che, fatto in televisione, al cinema, dappertutto, perché è andato ovunque, fosse in qualche modo il segnale di una incapacità di giudizio di gusto, e questo forse è che è una delle cose più interessanti. Sono statistiche serissime che determinano appunto il superamento di questa soglia, la caduta di ogni pregiudizio nell'intimità coniugale. Hanno fatto studi, ne so, le donne si lasciano andare dopo tot anni, gli uomini... anni che tu ne parli. Sì, perché è un tema affascinante questo. Ecco, però c'è la storia dello scoiattolino, ha una sua storia, perché fu censurata, fu tolta, fu trasformata in un altro, adesso non ricordo bene, un soffio gelido. E a nessuno però piaceva. Però questo soltanto durante il giorno. Infatti ci fu una protesta in rete, mi ricordo di aver letto. Protetto, in fascia protetta. E infatti il risultato è che il sequel è stato che lo scoiattolino, invece di emettere lui questi petti formidabili, li fa emettere a dei pinguini a cui si sta sciogliendo che la calotta polare sotto i piedi, e quindi anche loro ingoiano la pastiglia formidabile ed emettono questo pack ghiacciato prodotto dalla scorreggiona dei pinguini. Quindi si passa da un animale all'altro con questo effetto quindi comunicativo. Quindi sei d'accordo che una delle caratteristiche del dinosauro intellettuale, che ahimè nella quale non mi ritrovo, ma questa fa parte della mia scellerata natura di surfista, è che alcuni cedimenti allo spirito goliardico, alla crassa cultura popolare, debbano mantenersi in un ambiente carnascialesco. Cioè c'è il momento in cui queste cose possono avere un valore, ma non possono andare a toccare quelli che sono invece i santuari del sapere. Non lo so, perché è apparsa in televisione in fondo, sì, che è il luogo in cui c'è molto di peggio. Infatti, secondo me, il problema è questo è un sintomo di qualcosa di un po' più complesso, che è quello della capacità di tutti di accettare certe modificazioni che sono progressive nella nostra comunicazione. E secondo me, appunto, lo scoiattolo, che è innocuo, è assolutamente slegato da quello che potrebbe essere una dimensione di cedimenti etici complessivi, certo, del paese, è il sintomo di una mitridatizzazione, cioè un'abitudine progressiva ad abituarsi a tutto. Ora, questo piccolo elemento di volgarità dello scoiattolo, secondo me, per il dinosauro è terribile, perché in realtà è il segno di cose ben più gravi che vediamo tutti i giorni e alle quali alla fine siamo completamente assuefatti. Quindi la responsabilità dell'intellettuale è non segnalare. Cioè, segnalare. Se noi non lo segnaliamo, siamo già estinti, anche se ma siamo sì, vivi. Perché in realtà quando uno supera certe soglie, anche di decoro semplicemente intellettuale, cioè dire che una cosa è questa invece che quella, ignorare certi ma come fenomeni. Ci si salva dalla contaminazione col beghinismo intellettuale? Sono quelle, vergogna per ogni cosa, ne ho migliaia io fra le persone che mi chiamano. Il beghinismo secondo me non ha molto a che fare con i dinosauri, è un'altra cosa. Poi la differenza è difficile da stabilire. Il dinosauro deve solo proporre, come in fondo diceva quel signore prima, le domande, purché non siano quelle marzullesche. La domanda è vero quello a cui sto assistendo? Ha senso? Io ho delle responsabilità in questo? Mi comporto come devo? Tutto quello che faccio è conseguente al ragionamento? Oppure appunto rischia di essere soltanto il seguire l'onda sulla quale stiamo surfando? Allora, essere surfisti è una grande abilità secondo me e va perseguita fino in fondo. Però bisogna sapere che si sta sulla superficie, bisogna sapere che sotto c'è qualcosa, se no si rischia di... Il mio arenarsi. Status era come si fa a scivolare sull'acqua senza bagnarsi le caviglie, e le mie caviglie ancora sono asciutte. Paola. Sì, sono qui. Buongiorno. Aspettiamo fiduciosi il suo intervento. No, è soltanto una modesta osservazione. Dunque, io purtroppo temo anch'io di essere una lettrice di libri e di non assuefarmi all'opinione che spessissimo si sentono da tutte le parti o si leggono su internet, che anch'io uso per il resto. Dunque lei si sente una dinosaura? Non so se dinosauro o meno, ma comunque mi piace leggere e studiare, nonostante non sia più giovanissima. E dicevo questo, cioè si è parlato di responsabilità. Io la responsabilità oserei unire la coscienza, perché secondo me andando avanti una coscienza matura e che sappia discernere è molto molto importante, cioè il fatto di trovarsi bene con se stessi per prima cosa, altrimenti io posso leggere, studiare tutto quello che voglio, ma resta un ego chiuso. Quindi una persona deve essere l'intellettuale, una persona anche appagata e risolta anche da un suo punto di vista. Mi scusi se la interrompo, no. Ho letto da qualche parte, in questo momento mi scuso, ma non mi ricordo dove e chi l'ha scritto, che è una frase che non ho mai più dimenticato e diceva così: il figlio molto intelligente, dunque, va educato perché potrebbe non sentire gli altri e restare chiuso e anche muto. Quindi l'intelligenza e l'educazione, ma in modo intellettuale, non parlo di educazione perché faccio attraversare la vecchiezza, dovrebbe essere un bene comune, e qui mi fermo. Ma dal momento che non è? Dal momento che non è, dobbiamo cercare di sforzarsi, perché lo è stato un tempo. Scusate, io sono un'innamorata di Seneca, ad esempio, cioè se io vado a studiarmi certe, non dico massime, ma anche, non so, Platone, Plotino, cioè è gente che c'è stata questa educazione. Forse la nostra mediocrità è proprio dovuta al fatto che l'abbiamo abbandonata. Ecco, Piero Dolfes, fermiamoci qua Paola, perché Paola ha messo a punto quello che io temevo. Non è che poi diventa una sorta di testa rovesciata come la bambina dell'esorcista, capace solo di guardare addietro e non osserva più quello che è in realtà lo spessore del tempo che attraversiamo nella contemporaneità? Sa, questa è la dimostrazione del fatto che gli intellettuali possono essere pericolosi e che essere dinosauri non vuol dire essere intellettuali, perché quando l'intellettuale rimane chiuso in questa dimensione un po' feticistica del libro, del sapere, del guardare all'indietro e non riesce a mescolarlo con quello che il presente gli confronta tutti i giorni con il passato, e quindi la capacità di mescolare l'alto e il basso, la dimensione della cultura popolare che è la espressione dell'oggi senza la quale non si può vivere, non è che uno può far finta che esista solo il passato, beh, allora l'intellettuale è pericoloso, anche perché finisce per non mettere naso dentro quegli strumenti di comunicazione moderni che hanno bisogno di lui ed esserne estraneo, guarda con sufficienza quello che è questo mondo maleducato, di massa, il mondo maleducato, non ci vuole lavorare dentro, non ne impara le regole, la sintassi, i ritmi, non sa starci dentro, e allora diventa non... una reliquia. Esatto. E cosa succede? Che invece gli unici che ci vanno in televisione e alla radio chi sono? Sono quelli con il ciuffo malandrino che stanno però a dire sempre le stesse cose, perché tanto quelli di libri non ne leggono più, sono degli ex intellettuali diventati animali da televisione. Alexandra. Buongiorno, intanto sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Dorfless adesso, in questo momento. Poi volevo dire una cosa. Sì, perché sono patetici, molto... gli intellettuali come tali, ospiti fissi dei programmi televisivi, in quella dimensione possono eccellere, giustamente, ma sono... perché diventano dei personaggi, bisogna sempre stare attenti. Sì, ma non bisogna aver nemmeno paura di questo, fa parte della frenesia di vivere il proprio tempo, essere personaggio è anche bello, da gusto, non è che è brutto. Vabbè, è chiaro, insomma, lo so, ho fatto teatro, quindi... facendo un casting, sto cercando attrici. Ma mi sono iscritta. Allora, sì, martedì ci sono, sono i provini. Sono su Facebook, Gianluca. Beh, adesso vado al punto, sennò la seguo. Ecco, no, andiamo avanti. Allora, io volevo dire una cosa, che secondo me la figura dell'intellettuale corrisponde a una specie di ipertesto vivente. Perché siccome nei libri ci sono dei richiami... Lei dove vorrebbe essere cliccata allora per mostrare il secondo livello di quello che non si vede subito? Oddio, è troppo complicato adesso. Vabbè, come, sono ipertesto. Ma come, il link qual è? No, io no, no, gli intellettuali, io non sono un intellettuale. Io, a me piace leggere, a me piace conoscere le cose, però mi piace anche occuparmi tanto della vita materiale. Quindi... No, però io ho capito cosa dice Alexandra Piero. Dice, l'intellettuale, prima cosa, non deve essere monocrate in una sola dimensione. Il vero intellettuale è qualcosa che assomiglia probabilmente all'erudito di altra epoca, è colui che in tutte le scienze, in tutti i campi del sapere, comunque una possibilità di approfondimento. Mi sembra aver capito questo, sei d'accordo? Penso di sì, mi sembra anche ragionevole che ci sia una dimensione ipertestuale nella costruzione dell'intellettuale. Io onestamente non posso immaginare che noi confrontiamo quello che è la dimensione sterminata dell'informazione che ci dà la rete alla modestia di quello che una mente umana può contenere, però lì c'è qualcosa, e cioè se uno ha capacità critica e l'ha sviluppata semplicemente pensando, cercando di ragionare, di non stare sempre dietro a quello che è già pronto, può sempre avere una capacità interpretativa di fronte a quello che si trova di fronte. Se uno questa capacità interpretativa non la costruisce, rischia di essere un conformista, e secondo me il conformismo è un altro di quei terribili problemi dell'oggi, insieme alla mania del presente, all'ancorare soltanto all'esistente. Questo non per parlare male dei surfisti. Il surfista non è un conformista. Perché il surfista invece deve essere capace di galleggiare. È uno che schiva i proiettili. Il conformista è uno che sta sempre con l'acqua alla gola e sta sempre dentro la melassa. Quella è la cosa da evitare. Il conformista non sarà mai impallinato. Il surfista rischia di essere impallinato o di essere colpito alle spalle. Lo sa, però svicola velocissimo. Melog 2.0. Vi spiego una cosa velocissimamente, molto facile, nessuno si spaventi. La musica occidentale, per lo più, si muove, è una specie di animale, si muove in un modo ben preciso, che è questo. Si sceglie un posto di partenza, qualunque, un paesaggio come fosse, una dimora. Se ne va un po' in giro, poi torna, imbocca il sentiero verso la casa ed entra in casa. Questo fa, c'è una dimora, esce, fa un giro e torna. E allora dice, saperse in nuovi amor l'eterno amore, cioè l'immagine di Dio, che l'amore è talmente incontenibile che come delle piccole fugaci apparizioni sono delle scintille del suo amore, e sono miliardi. Questo è il grande rischio, questa è la vera palude, dove nessun surfista o nessun pattinatore, Piero mi ha detto nell'intervallo che lui, il surfista, considerava un pattinatore. È vero, io uno dei pochi sport che ho praticato nella vita è stato il pattinaggio, a me piace molto pattinare, mi sveglio ogni tanto la notte che ho sognato che pattinavo. Il pattinatore sì, anche lui è qualcuno che deve sempre stare in bilico, attento a dribblare ogni ostacolo e non cascare per terra. Beh, il vero rischio è questo, quando ti appare Baricco, quando ti appare Benigni che legge Dante, la gente si strappa le vesti in una sorta di orgasmi e capassioni, dirà finalmente qualcosa di intellettuale in televisione. Lì il vero pericolo, lì è veramente la schifosa contraffazione del medium. Sa, per certi versi, quando si dice Baricco è un mostro sacro, eccetera, sì, è vero, in parte lui riesce ad essere questo, cioè ad essere quello che spezza il pane della scienza, che racconta alla gente che cos'è l'opera, che cos'è la letteratura, però fondamentalmente è un uomo molto critico. Fondamentale quel suo libro sui barbari, che ho letto con attenzione, non condivido quasi niente, ma mi affascina l'idea che lui abbia chiamato barbari quelli che poi sono fondamentalmente quelli che vivono nel mondo della cultura digitale. D'altra parte invece Benigni, due esempi opposti, perché Benigni è uno che legge Dante con la capacità di penetrazione di un oste fiorentino, e cioè conosce la lingua ma in realtà non ne conosce le basi, quindi santifica qualcosa che non è suo, tant'è vero che non ci entra dentro e quindi diventa ancora una volta un'icona. È vero che sembra un sacrestano in crisi estatica che vuole imitare il parroco, lo chiamano tutti i vescovi a Benigni proprio perché improvvisamente Benigni, reso glorioso da una bestemmia in un film, Berlinguer ti voglio bene, che durò 5 minuti, perché giustamente quello era il suo ruolo, improvvisamente si accorge che il suo amore spassionato, questa Nicoletta Mantovani angelicata che trapela in ogni suo bulbo, sembra che sia diventato, non so, qualcosa sì, che non però, è più... Beh, lì, per certi versi, si raccolgono tutte le contraddizioni che abbiamo messo in cantiere fino ad oggi. Da una parte, Baricco, che esalta la grande cultura e poi parla dei barbari dicendo sì, effettivamente la barbarie è una cosa con la quale voglio avere a che fare. Chi di noi non ha a che fare con la barbarie che lui definisce tale, e cioè l'uso della cultura digitale? Ma dall'altra parte invece un'altra icona televisiva, Benigni, che secondo me appunto ha l'accento toscano, ma di Dante non sa nulla e capisce poco, e quindi viene idolatrato soltanto perché è il grande divo che utilizza uno strumento che gli altri non arrivano. Sono due feticismi opposti. Penso che io nella mia foga ho confuso la donna di Pavarotti con la donna di Benigni, è gravissimo. Nicoletta Braschi non... Sì, infatti, vabbè, me ne sono accorto in questo momento. Sandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, tiratevi su, insomma, non disperate. C'è forse un motivo profondo. Perché lei si sente giù? Come? Perché lei si sente giù? No, pensavo che quando ho sentito parlare di dinosauri, pensavo che gli intellettuali si sentissero dinosauri. Lui sì, Piero Dolf si sente. Oggi, dal mio punto di vista, è indispensabile. Insomma, in questo mondo abbiamo un senso, qualcuno ha detto se serviamo a qualcuno e se serviamo a qualcosa, ecco. Beh, anche se ci divertiamo e stiamo bene, perché esatto, tutto questo altruismo esatto, come fondamentale ragione del nostro esistere, sì, ma fino a un certo punto. Beh, diciamo questo, che all'inizio dell'Ottocento c'era qualche problema sul concetto di intellettuale. C'erano i ricchi che mettevano soldi, poi c'erano gli inventori che facevano le macchine, i tecnici, e poi c'erano gli operai, quelli che lavoravano. Cercare di capire cos'era un intellettuale ci hanno provato un tanto, ci ha provato Gramsci, e qualcuno ci è andato vicino ad individuare cos'era all'epoca l'intellettuale. Oggi dovrebbe essere più semplice, oggi è qualcuno che pensa nel bene o nel male e arricchisce la società, lo stesso Benigni. Abbiamo dato gloria a questo signore. Lui potrà sentirsi veramente un intellettuale colpito nel suo cammino. La sega motore è intervenuta al momento giusto, perché effettivamente qui si stava precipitando verso una glorificazione di un ruolo che secondo me non è quello che prevede questo signore. Secondo me l'intellettuale, sempre che esista ancora qualcosa, è uno che riesce a fare i conti con quello che ha intorno. L'intellettuale che sta lì a pensare e basta, chiuso nel suo studio, è un attore d'avorio, è un mostro del quale non possiamo più avere niente a che fare. Invece tornerei un momento a quella faccenda del dinosauro che ci sta un po' tra le scatole. Io sono d'accordo, i dinosauri effettivamente sono estinti, però lo dico anche in conclusione del libro. Io sono convinto che l'evoluzionismo ha colpito anche loro, e siccome noi viviamo in un mondo che muta molto velocemente, anche i dinosauri notoriamente nel tempo sembra si siano evoluti, siano diventati gli uccelli, sono alla base della costruzione della categoria più volatile, più aerea, più leggera e più capace di sorvolare le cose che ci sia sulla faccia della terra. Se il dinosauro riesce a diventare questo, forse sopravvive lui e la sua difesa della cultura. Quindi la nostra speranza è di trasformarci in uccelli e non sfuggire a questa terrificante catena evolutiva che ha avuto il dinosauro animale estinto. Chi ancora sentisse il dinosauro sappia che nell'essere volatile ha ancora una sua speranza. Oggi Piero Dolfes ha parlato del ritorno del dinosauro, che è il suo libro di difesa della cultura, di cui sentirà molto parlare tra poco. Ringrazio Alessandro Chiappini, Fabrizio Intonti, Piero Dolfes, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.